Il capo della famiglia è rimasta sola, che ha appena 18 anni, e peraltro anche lei si è messa subito un gioco, ha costruito un'associazione che si chiama Ring, che si occupa già dei temi della geopolitica. Vabbè. E vi faccio vedere un video di 2 minuti e mezzo che un pochettino racconta dove stiamo andando. Italia e tutto il mondo per spingere un cambiamento sociale, no? Provando a lavorare sui territori nei quali siamo impegnati, ma con l'obiettivo di andare oltre i nostri territori, e diciamo la vostra presenza qui è assolutamente la conferma di questo ragionamento. E il nostro core è la realizzazione di spazi civici e culturali, quindi forse la skill più forte che abbiamo in pancia ha a che fare con il placemaking, no? Cioè il prendere un posto che è un edificio abbandonato e farlo diventare un luogo attrattivo, un luogo intelligente, un luogo che si vuole scoprire. Nella foto piccola vedete Sophie Hodling, l'ingresso dello spazio di Mazzarino, di uno degli spazi di Mazzarino. Lei è un'artista australiana, ha fatto questo bellissimo murales, e a noi ci piace definire questi luoghi polmoni urbani perché consentono ai cittadini di respirare un'aria nuova, riescono a diventare in qualche modo dei landmark, dei simboli di una città, e diventano un po' il motore di pensiero e di trasformazione della città stessa. Questo non so se oggi riuscirete a vederlo, faccio una telefonata affinché sia possibile anche fare questa visita, ma siamo all'interno della scuola di Mazzeno, l'abbiamo realizzato 2 mesi fa, è una palestra, o meglio, era un'ex palestra che è diventata un'opera d'arte all'interno della quale i ragazzi giocano a basket, fanno atletica, allenamento. E qui siamo invece all'interno di quello spazio che vedrete nel pomeriggio, che è completamente dedicato ai teenager, quindi abbiamo lavorato con 1200 ragazzini di Mazzeno e dintorni per coprogettare un luogo permanente per adolescenti. E cosa ci hanno detto i ragazzi? Non vogliamo che questo luogo si chiami centro giovanile, ci hanno detto che volevano appunto uno spazio pieno di arte, pieno di stimoli, di colore, e che in qualche modo potessero trovare ispirazione anche dentro quello spazio. E quindi abbiamo deciso di fare una magazine library, quindi una emeroteca, di fare 100 abbonamenti a 100 riviste, da New York Times a internazionale, a riviste di qualsiasi tipo, fotografia, arte, musica, innovazione sociale, viaggi, storia, qualunque cosa. E questa è la locandina del festival che abbiamo fatto dal 20 al 22 dicembre, che è andato così così. Vi racconto tutte le cose per bene, no? Cioè, il livello di indifferenza e di così veramente di sofferenza di questi ragazzini che non hanno desideri, non hanno sogni, non hanno stimoli è enorme. Cioè, ieri vedere invece questi bambini piccoli che alzavano la mano, volevano prendere la parola, mi ha riscaldato il cuore. Lavorare con i ragazzi più grandi è veramente difficilissimo. Carichiamo camionate di frustrazioni, ma proprio perché è difficile ci sbatteremo la testa fino a quando, come dire, non sbuchiamo, no? Abbiamo iniziato da poco, abbiamo definito la fase che stiamo vivendo la montagna va da Maometto, proprio perché è difficile però la farli venire da noi. Noi andiamo a scuola da loro, facciamo un'attività con loro. Durante questo festival abbiamo portato gente incredibile a fare dei laboratori la mattina con loro di qualsiasi tipo di argomento. Pensate che avevamo una simulazione del Parlamento Europeo con un'organizzazione accreditata con le Nazioni Unite, ma avevamo il laboratorio di tatuaggio, avevamo il laboratorio di motociclismo, il laboratorio di make-up, cioè per far sì che tutti potessero avere un interesse. Ci siamo, come dire, spremuti per avere qualsiasi tipo di cosa. Ma nonostante questo, diciamo, è stato così e così, no? I laboratori hanno funzionato perché erano più o meno obbligati dal fatto che erano orario scolastico, quindi questo abbiamo avuto, come dire, l'intuizione di dire non lasciamo questa attività fuori dall'orario scolastico perché sennò il rischio è che non vengano proprio. Ma dall'altro, ad esempio, avevamo la musica dal vivo perché i ragazzi stessi ci avevano detto fate musica. Abbiamo portato ogni giorno, a mezzogiorno, i musicisti dal vivo e i ragazzi se ne andavano. Vuoi dire, non è facile, no? Quindi stiamo imbarcando frustrazioni, ma pazienza. In contemporanea, mentre lavoriamo su Mazzarino, abbiamo deciso di darci anche qui, da subito, uno scenario più ampio, nazionale e internazionale, con un contest che si chiama Plural Talents, che indaga la creatività giovanile under 19 e che ha come partner il Ministero degli Esteri. Quindi l'anno scorso abbiamo avuto progetti che poi sono risultati vincitori da Addis Abeba, da Bratislava, da Cordova, da diverse parti del mondo. E adesso abbiamo lanciato la seconda edizione, c'è il tempo sino al 19 maggio per mandare le proposte. Il nostro desiderio è provare ad avere un posizionamento a livello nazionale e internazionale rispetto alla creatività under 19, che è esplorata rispetto ai temi della musica, dello sport, ed è completamente vergine rispetto ai temi dell'arte, dell'architettura, no? Di quelle inclinazioni, di quelle vocazioni che magari i bambini possono avere, ma non c'è nulla. Cioè, a abbastanza esplorato il tema della matematica, STEM, filosofia, no? Ci sono questi campionati per ragazzi, ma tutto il resto è vuoto. Beh, insomma, non vi parlerò della scuola di architettura per bambini, mi pare il caso. Un altro tema molto importante è quello della parità di genere. E in questo senso c'è, dobbiamo flow qui, quindi se volessi dire due parole sul Prime Minister, sì, nessuno me direbbe. Però in linea con quello che diceva Andrea, soprattutto lavorando con le giovani generazioni, se c'è un problema, come dire, legato all'anagrafica, c'è anche un tema molto forte legato al genere. Per cui se già non interagiscono in generale gli adolescenti, ragazzi, ancora meno. Per cui i dati, non sto qui a dirveli io, probabilmente li conoscete meglio di me, dicono che per raggiungere la parità di genere abbiamo bisogno almeno di altri 30-50 anni, se va bene, quindi un po' ci siamo guardati attorno e soprattutto osservando quello che veniva fuori dalla scuola di architettura, perché poi ad una certa età le ragazzine non frequentavano più, però rimanevano in un limbo. Allora abbiamo detto, perché non fare una scuola che innanzitutto possa restituire alle ragazze la consapevolezza di quanto sia importante che loro prendano parola e che loro prendano posizione, perché il tema è che spesso le donne si tirano indietro da sole. Io dico sempre che c'è questo studio interessantissimo, dice, per le posizioni lavorative, quando vengono chiesti 10 requisiti, gli uomini si candidano, se ne hanno 3, le donne ne devono avere almeno 8 per candidarsi. E quindi questo vi dà, come dire, l'idea di come il genere femminile in qualche modo si sente sempre, ha questo senso di inferiorità che di fatto non dovrebbe avere. Quindi abbiamo un po' sulla falsa riga di solo dato vita a questa scuola, abbiamo Prime Minister che oggi ha 15 sedi in tutta Italia, è un format un po' diverso perché è una lezione al mese, sempre con un tema diciamo annuale, però le ragazze lavorano ad un progetto di cittadinanza attiva, quindi a un progetto politico dove per politica si intende appunto l'agire quotidiano, come dire, la costruzione della città. Parallelamente abbiamo fatto diverse attività, quindi molte delle nostre ragazze hanno avuto modo di partecipare a dei programmi con l'ambasciata americana, abbiamo lavorato su diverse manifestazioni. Abbiamo fatto un lavoro di ricerca interessante anche sul voto a 16 anni, sempre fatto dalle ragazze e discusso poi a Biennale Democrazia a Torino. Quindi diciamo che è un progetto che sta crescendo e anche noi ora stiamo cercando di capire fin dove vogliamo arrivare e come vogliamo declinare il progetto, e questo ha dato vita poi durante il percorso anche un altro progetto, forse dopo la Divaci, che è una quadriennale. Perché comunque l'idea di riportare sul livello personale quelli che sono dei macro temi di cui si discute a livello generale, poi di fatto io dico sempre, lo dicevo anche nel video, no? Abbiamo questa bellissima agenda 2030, con questi 17 obiettivi tutti siamo d'accordo con gli obiettivi. Se ne parla sempre, ma in concreto. Noi cosa facciamo? Nella nostra vita quotidiana, per raggiungere questi obiettivi, cosa facciamo? Da lì è nata proprio la mostra che si chiama Radical She, perché è la quadriennale si chiama Radical She, e questa mostra da 1 a 100 quanta parità di genere c'è nella tua vita. Abbiamo affrontato 4 temi, che erano il tema della cura, dell'economia, del lavoro e della sessualità, e con dei dati molto divertenti, perché gli uomini sovrastimavano la percentuale, la parità di genere, la percentuale di parità di genere, mentre le donne sottostimavano. E quindi poi però c'era questo percorso, per ogni tema c'erano delle opere e una domanda, e poi alla fine, facendo tutto il questionario, veniva fuori la vera percentuale. È stato molto bello e interessante perché abbiamo lavorato con la Sapienza, con questa Marcella Corsi, che è un'insegnante che si occupa proprio, una professoressa si occupa di economia di genere, con la Global Thinking Foundation. Abbiamo analizzato tutti i report appunto della comunità europea. Hanno partecipato al test, no? 720 persone, tra i visitatori della mostra, che abbiamo calcolato sono stati il 20% di quelli che hanno visto la mostra, quindi è comunque già un tasso abbastanza alto. E la media, perché era da 1 a 100, è risultato intorno al 72-73, che però diciamo non va preso come campione generale, perché comunque chi viene a Farma spesso è c'è un pubblico un po' di quelli che facevano. Allora, un altro tema, ancora abbozzato, che però ci interessa molto, è quello del rapporto intergenerazionale. Vedete al centro la zia Maria, che forse avete conosciuto, la regina dei sette cortili. In realtà, diciamo, noi è da 15 anni che ci relazioniamo col contesto, che è fatto soprattutto da persone adulte, però nella foto che vedete in basso abbiamo lavorato mettendo insieme, come dicevo ieri, ragazzini e le associazioni delle persone anziane per progettare un SUI, quindi uno spazio urbano intergenerazionale. L'altro tema, diciamo non nuovo per noi, ma che oggi ci impegna con una marcia differente, è quello dell'integrazione, l'accoglienza dell'integrazione. Il 29 dicembre abbiamo sottoscritto un accordo con Sua Eccellenza il proprietario del Gento, e la settimana prossima faremo un primo intervento trasformativo dentro l'hotspot di Lampedusa, e stiamo già lavorando per trasformare anche l'ufficio immigrazione. Nel coinvolgere tutte queste persone competenti nel settore, abbiamo capito appunto che questa cosa non doveva fermarsi all'accordo con la prefettura, quindi nascerà un collettivo che si chiama Transition 4, e l'idea è che nel tempo questo collettivo, aggregando altre intelligenze, altre competenze, possa, come dire, sperimentare, proporre pratiche, politiche e luoghi per accoglienza e integrazione. Vabbè, siamo dentro Human Forest, e ritorna un po' quello che diceva prima Florina, no? Ogni giorno si parla di climate change, però poi di fatto nessuno fa nulla. A noi ci è sembrato, come dire, intelligente fare una provocazione di una foresta dentro un edificio che in qualche modo potesse anche dare una visione rispetto alla città nella quale abitiamo, che è piena di vuoti, di ruderi, di cose, no? Sostituire questi spazi, no, con il verde, con l'ambiente, visto che questo ce lo dicono gli scienziati di tutto il mondo, ed è un'operazione semplice, per la quale non bisogna essere a propria volta scienziati. L'idea è che nel tempo, dai sette cortili a Palazzo Micciche, ogni posto dove possiamo mettere un albero, una pianta, lo faremo. Vi accennavo ieri di Società per Azioni Buone, che nasce un po' anche questo da una frustrazione. Nel 2017 abbiamo avuto un anno di trattative lunghe, faticoso, con un fondo di investimento. Sembrava che volessero investire su Farm e su Favara delle somme importanti, un fondo di investimento di venture capitalist. E dopo 15 mesi di trattative si sono tirati indietro, e questa roba ci ha molto stancati, no? Perché da una parte in questi anni non abbiamo avuto nessuna relazione con lo Stato, diciamo, abbiamo iniziato proprio il 29 dicembre di quest'anno con il prefetto, e improvvisamente c'era un soggetto privato che si interessava a noi, e abbiamo detto boh, magari, no? Perché questa roba è, come capite bene, è molto più grande di me, di Florinda, della famiglia, della nostra comunità. È una roba che oramai insomma, richiederebbe un'attenzione pubblica differente. E quando questi ci hanno mollato, abbiamo detto, ma cavolo, che cosa dobbiamo fare? No? C'è stato di mezzo un viaggio molto bello fatto grazie a un invito alla diplomazia americana, che mi ha portato a Washington, a Pittsburgh, a Detroit, e tornando, diciamo, riflettendo anche su quello che era stato il primo tempo di Farm Cultural Park, abbiamo detto, ma in fondo noi come abbiamo fatto a trasformare questo territorio in questi anni? E lo abbiamo fatto avendo consapevolezza di poter sfruttare tutte le risorse che avevamo a disposizione. E qui nasce Società per Azioni Buone. Noi diciamo che ogni territorio ha in sé tutto quello che serve per cambiare. E sono spazi pubblici o privati come Palazzo Micciche. Quanti ce ne sono? Cina è piena, no? Di spazi che sono chiusi, inutilizzati. Noi abbiamo iniziato ora una relazione con il Demanio, solo in Sicilia hanno 3.000 immobili fermi, no? E questo vale per tutta l'Italia. La seconda cosa sono le competenze, no? Che ci sono nei territori, no? C'è chi è competente con l'economia, c'è chi è competente a progettare, c'è chi è competente a fare attività con i bambini. Cioè le competenze ci sono, anche laddove non ce le hai nel tuo territorio, magari sono andati via, no? Ci sono tante persone di Favara che sono andate via, ma che comunque ci hanno una mano gigante nel portare avanti questo progetto, no? Perché tutti hanno piacere di dare aiuto alla città di origine. E il terzo elemento, quello che pochi ci credono, sono i soldi. Ora, nonostante tutti si lamentino, nonostante 20.000 giovani vanno via dalla Sicilia ogni anno, le banche sono piene di soldi. E non è solo le banche della Sicilia, in realtà sono tutte le banche italiane. A Favara... invidia l'Italia per questo motivo, perché il risparmio privato italiano potrebbe risanare il debito pubblico 10 volte e per di più gli italiani sono ricchi, contrariamente a quello che noi pensiamo. Voi sapete quanti soldi ci sono a Favara nelle banche, Banca e Poste? Sparato un numero. Quanti milioni di euro? Provate. 30.000 abitanti. 30.000 abitanti. 10. 10? L'ha detto 10? Ok, ce ne sono 500 milioni di euro. Ad Agrigento ce ne saranno 700 milioni, a Gela ci sarà 1,5 miliardi, a Catania ce ne saranno 7, 8. Quindi cosa diciamo noi? Che se i cittadini investissero anche solo il 10% dei propri risparmi in società per azioni buone Ancona, in società per azioni buone Frosinone piuttosto che Favara, noi qui domani a Favara avremo 50 milioni di euro cash, senza bisogno dell'Europa, senza bisogno del PNRR, dello Stato, della Regione Sicilia, di nessuno, no? Quindi quello che ci serve è solo uno shift di cerebrale, no? Ok, noi abbiamo costituito Società per Azioni Buone, la cosa divertente, mi fa piacere anche dirvi, perché poi non è mai niente in discesa, ma io ho ricevuto una mail imposta certificata di Consob dove mi minacciava sanzioni da 25.000 a 5 milioni di euro perché abbiamo fatto un post di promozione Società per Azioni Buone, dicendo che noi stavamo facendo una offerta al pubblico non autorizzata. Di fatto, diciamo, se noi avessimo fatto un sito internet in cui con un click tu compravi una azione di Società per Azioni Buone, sarebbe stato come dicevano loro, ma noi non avevamo fatto quella roba lì. E quindi io con molta educazione ho risposto: cari amici della Consob, sono onorato della vostra attenzione, ma sappiate, per questo e quest'altro andate a fanculo. Però ecco, questo vi dà la misura di come il nemico è attento, perché se Società per Azioni Buone funzionasse come SOU e noi riuscissimo a fare funzionare la prima, noi l'abbiamo costruita la prima, però dico, ancora farla funzionare, anche quella è una bella utopia. Perché mai noi dovremmo comprare ancora le azioni, no, della Parmalat o delle banche, no, o di soprattutto noi che stiamo nelle periferie, no? E non invece investire dei soldi per fare gli asili nido, per fare... Quindi con i crediti abbiamo preso tutti i soldi nostri e investito a Milano, giustamente, mica investito a Favara. Certo. La piazza. Altro tema super importante è quello, diciamo, la cooperazione in generale della dimensione internazionale. Vi racconto un altro progetto educativo che è American Cities, portiamo appunto i sailors americani nelle scuole siciliane per un progetto di volontariato linguistico. quindi un rapporto con la diplomazia, ma è anche una cosa divertente perché questi ragazzi hanno spesso tra i 19, 23, 24, 25 anni, appartengono sempre a minoranze ispaniche, asiatiche, e quindi diciamo le due edizioni che abbiamo fatto sono state veramente ricche di confronto per loro e per noi. Infine, diciamo, abbiamo un'ossessione per il tema delle città, il futuro delle città, lo facciamo con Countless Cities come diciamo dispositivo principale, che è anch'esso una mostra biennale. Quindi ogni due anni gli spazi di Farm vengono trasformati rispetto a determinati temi, in cui invitiamo municipalità, università, gruppi di designer, architetti, artisti a rappresentare una città rispetto a un dato tema. Ci siamo, ho spoilerato già il tema di quest'anno. Era molto facile, avresti potuto scommettere, avresti quindi ciao, sono Viola, se non l'avessi capito, visto che ho già parlato poco. Ho 14 anni. Ho 14 anni e per la nuova edizione della Scuola di Architettura io sarò la nuova direttrice. Allora, sono immensamente onorata di poter ricoprire questa carica perché, come vedete in questo, queste sono tutte cotonie che sono collegate alla Scuola di Architettura nei vari anni. E io all'interno di questa scuola veramente dico che ci sono cresciuta e ci ho lasciato il cuore, e quindi per me è un immenso onore poterla rivivere, però da un punto di vista diverso. Che è quella appunto di chi la coordina e chi la gestisce. Quindi il tema di quest'anno appunto è la cultura della pace, perché nella situazione mondiale in cui ci ritroviamo adesso ovviamente non si poteva parlare di altro tema se non quello della pace, perché in un mondo dove è pieno di conflitti non ci eravamo messi d'accordo. Sì, infatti lei è rimasto scioccato. Appunto, in un mondo come oggi non si può fare altro se non educare i bambini alla pace, perché è l'unico modo. Quindi gli input per quest'anno saranno insegnare la costruzione della pace globale, quindi coinvolgere i bambini e comprendere l'interconnessione tra loro e tra gli altri, tra il mondo. Incoraggiare il pensiero critico, perché pensando in maniera critica non si segue la massa e si ragiona. Esplorare diversi aspetti della costruzione della pace, quindi come creare pace e creare cosa? Questa è la parte più difficile, esatto. Che daremo aiuto. Creare un ambiente di apprendimento dinamico, appunto, in cui i bambini possono confrontarsi, possono sviluppare empatia, consapevolezza e competenze per diventare efficaci creatori di pace. Quindi abbiamo pensato di iniziare con la prima lezione, non so se conoscete quello che è il progetto di Content Kitchen, che è un progetto che nasce a Pittsburgh negli Stati Uniti, dove appunto loro ogni 4 mesi, in questo posticino che è abbastanza piccolo, portano la cucina di un paese diverso che è in guerra in quel momento con gli Stati Uniti, quindi che si trova in conflitto con gli Stati Uniti. Attualmente porta i piatti tipici di Gaza, ad esempio. E questa lezione ve l'ha tenuta da Anastasia e Milana, che sono due mie care amiche che vengono nella mia scuola. Anastasia è russa e Milana è ucraina, quindi loro sono migliori amiche e abbiamo pensato che non ci può essere esempio migliore per dei bambini vedere come due persone di due paesi che sono attualmente in conflitto possono essere comunque tanto amiche. Abbiamo pensato di iniziare con questa lezione perché appunto subito dopo, cioè la lezione si svolgerà con questo laboratorio di cucina tra i bambini, con quella che è la cucina tipica ucraina e russa, che sono due culture molto molto simili, per poi concludersi con una cena sociale tra le famiglie, quindi dei bambini, e poi in generale la comunità di Favara. E questo è un altro obiettivo importante, che in alcuni periodi di questi anni diciamo di gestione della scuola di SOU ha funzionato bene, in altri un po' meno, quello di creare una forte relazione anche con le famiglie dei genitori, dei bambini che frequentano la scuola. Continuando, abbiamo pensato di parlare e portare il tema del conflitto che c'è stato in Ucraina. E questa lezione la terrà mia sorella, Carla. Appunto Carla nel 2022, quando proprio è scoppiata la guerra, all'inizio, quindi a febbraio, tra febbraio e marzo, si è ritrovata in questa situazione. Lei era in Francia e vedeva tutte queste persone, comunque, perché eravamo bombardati da tutte queste notizie, e ha detto: ma cosa posso fare io per aiutare queste persone? Quindi le è venuta questa idea di organizzare un autobus che partisse da Favara, che sarebbe arrivato poi al confine polacco con polacco-ucraino, per poi ritornare con a bordo 56 donne e bambini. Quindi poi il progetto è riuscito, l'autobus costava 9.000 euro, quindi ha deciso di fare una raccolta fondi che in meno di 3 giorni ha raggiunto 12.000 euro. Quindi la potenza di raccogliere questi soldi non è arrivato. La mamma. L'autobus è arrivato grazie a lei, che armata di tanta forza e coraggio è andata, è partita. Io ero terrorizzata, un'ansia per 5 giorni, in panico, lei nervosa che rispondeva al telefono, tipo ti dicevo sì sono viva, ciao. Quindi noi qua a morire d'ansia perché... Sì, perché poi era proprio l'inizio, il conflitto. Sì, quindi... non si sapeva nulla ancora. No, ma devo dire che questo è stato un progetto molto bello, perché è stata, come dire, Carla ha avuto l'intuizione, subito c'è stata una risposta, oltre che a livello mediatico, quindi a raccolta fondi, c'è stata una risposta da parte della comunità. I momenti più belli e più emozionanti sono stati nella preparazione dell'autobus, perché noi siamo partiti con un autobus da 56 posti, da 54 posti, anzi, pieno zeppo, cioè io pensavo per il viaggio andato lo faccio riposando, invece no, perché l'autobus era veramente pieno fino ai 2 posti da cibo, medicine. E poi c'è stata anche una bellissima risposta, tanto da parte delle persone che hanno accolto. E poi anche una festa bellissima quando siamo arrivati, che non è da poco, quindi c'era, come dire, si sentiva forte la comunità, sì, il senso di comunità, è stato, devo dire, molto... E dall'altro però c'erano le istituzioni che ci davano tutte le prescrizioni, no? Quindi i soggetti deputati a fare questo lavoro non stavano facendo nulla e noi siamo partiti da una famiglia di 4 persone, 2 minorenni e poi una comunità, abbiamo fatto l'operazione come se fosse la cosa più naturale del mondo. Quindi una lezione verrà tenuta da mia sorella. Allora, forse me ne parla meglio lui, meglio di me. Simona ci diceva, ad esempio, rispetto alla scuola, al tema, no, della dimensione mondo, cioè far esplorare ai bambini altre culture, altre dimensioni, altri contesti. E quindi ci saranno 3 lezioni che saranno dedicate a 3 luoghi. Vabbè, questo l'avete visto in mostra perché ce l'abbiamo in galleria, Auroville, che è il sud dell'India, dove c'è questa comunità di 3.500 persone che vivono in armonia superando, diciamo, ogni dimensione religiosa. Avremo un secondo laboratorio che invece sarà dedicato alla città di Varanasi. Noi siamo stati proprio da pochissimo in India e questa città è veramente una roba che ti scuote, perché è una città, loro dicono, la città più antica, la città più spirituale del mondo. Di fatto è veramente la città più spirituale del mondo, perché tutto si muove intorno alla religione, ma soprattutto la cosa ovviamente più forte è legata al tema della morte. Gli induisti, come dire, celebrano e pregano anche il fiume, il Gange, e morire a Varanasi, quindi avere il funerale sulle banchine, sui ghat di Varanasi, significa superare il ciclo della reincarnazione e andare direttamente in paradiso. È un posto veramente incredibile, quindi è anche un posto anche dove respiri un senso di pace, di fraternità, un po' in tutta l'India. Ci è sembrato bello che inserirlo. La terza città, diciamo più complessa, però anche questa incredibile, e il Cairo, in particolare racconteremo una porzione della città del Cairo, siamo sotto la montagna del Cairo dove c'è questa comunità che si chiama, loro si chiamano Zabalen, Zabalen significa raccoglitore di spazzatura, la città si chiama Garbage City, quello che vedete qui sono rifiuti ammassati da tutte le parti. Questo lavoro è stato fatto da un artista straordinario che si chiama El Sed, sono 137 facciate di muri coinvolte per fare questa unica opera, ma quando noi siamo andati il primo quarto d'ora non riuscivamo neanche a respirare, tanto era l'aria bestiale, perché loro la mattina vanno al Cairo, prendono la spazzatura, se la portano a casa e iniziano a smistarla. Però poi scopri che anche lì c'è la bellezza, perché c'è l'artista polacco che scolpisce la montagna, c'è il campo avventura per i bambini, c'è la chiesa cristiano copta che fa attività, e quindi anche nel luogo più estremo tu capisci che la gente nasce, cresce, si sposa, fa figli, appartiene a quel luogo lì. Ci raccontava la guida, c'è stato il miracolo, perché quello che vedete è la montagna che loro hanno scavato per ricreare la chiesa, c'è un anfiteatro che può ospitare fino a 20.000 persone. Informale. Tutto informale. Anche l'anfiteatro di 20.000 persone. Ed è una roba straordinaria, perché poi arrivi sulla montagna, trovi questo vuoto e trovi questa bellezza straordinaria e questo proprio senso di pace, di convivenza pacifica tra le persone che stanno lì. Quindi questo è un po' quello che ci insegna anche le tue professori, no? Quello di far scoprire il mondo, no? E anche usanze, culture, modi di vivere differenti. Come vi dicevamo prima, noi pensavamo di dividere appunto questo anno in più capitoli, quindi quello che avete visto adesso è il primo capitolo e adesso ci sposteremo in un altro che è la parte più complessa, questa è più difficile, la quale sì, chiediamo a Simone e a tutti di darci una mano a semplificarlo. Che è quella di costruire la cultura della pace e insegnarla ai bambini. Partendo da quelli che sono i principi fondamentali delle Nazioni Unite, che è tra l'altro un tema che mi sta molto a cuore, e quindi esplorare anche i diversi effetti della costruzione della pace, perché comunque è difficile già come tema per degli adulti, immaginiamo da spiegarla a dei bambini che hanno un'età che va dai 6 ai 12 anni. Si divide in più fasi, quindi la definizione del conflitto, la manutenzione delle relazioni, le prospettive di pace e arrivare alla parte finale che è proprio quella della negoziazione. Quindi per partire da questo bisogna spiegare, ancora prima di come risolvere i conflitti, bisogna spiegare ai bambini come si può individuare un conflitto. Quindi quali sono gli elementi che ci mandano, fanno scatenare i nostri conflitti, ma anche ci fanno capire che c'è un conflitto, no? Esatto. Se andiamo avanti con l'immagine, noi abbiamo lavorato negli ultimi anni anche sul tema del perdono. Perché? Perché siamo una società del conflitto a tutti i livelli, conflitto in casa, marito, moglie, conflitto con i figli, conflitti sul lavoro, all'università, datore di lavoro, lavoratore, però è abbastanza naturale, perché siamo esseri umani, avendo tante relazioni, il conflitto è naturale che esista. Quindi è fatto anche di come noi sbagliando creiamo dei semplici conflitti. E quindi diciamo abbiamo per il momento un materiale abbastanza definito per analizzare cos'è il conflitto e provare a spiegarlo in maniera semplice ai bambini, anche nel bisticcio con il compagnetto, ma anche capire quali sono le parti di un conflitto, qual è la storia del conflitto, perché è nato questo conflitto, no? Cioè provare a spezzettare ogni momento da quando nasce un conflitto fino al momento della risoluzione del conflitto, anche con dei giochi di ruolo per dare la possibilità ai bambini di apprendere, no? Anche delle tecniche che consentano loro, quando possibile, di prevenire il conflitto, quando non possibile, come dire, di trovare una soluzione. Quindi come ci siano anche degli aspetti positivi e negativi all'interno dei conflitti e se è possibile come possiamo riuscire a ritrovare qualcosa di positivo nel litigio, nel conflitto. Come dicevi tu, appunto, si impara dagli errori, si impara dagli sbagli, quindi come si può riuscire a portare la pace. Di come però la pace ha bisogno di manutenzione, di come bisogna lavorare e volerla la pace, perché non è una cosa dovuta, cioè non è semplice, quindi richiede anche uno sforzo. Quello che diceva sul perdono anche. Ci sono questi, anche queste tre slide per darci un'idea, che provi a smontare dei pregiudizi rispetto al tema del perdono, no? Cioè noi crediamo talvolta che perdonare è un atto di debolezza. Invece è un atto di forza. Invece è un atto di forza. Crediamo che perdonare sia un atto di altruismo e invece è un atto di egoismo. Perdonando ti liberi di qualcosa che ti fa stare male e ti liberi di una cosa che in qualche modo ti fa rimuginare e ti fa soffrire. Questo è quello che dicevo prima, quindi di come... Cos'è la pace? Come la definiamo? E di portare anche i bambini a pensare veramente a questo, a dare una definizione di pace magari, di quella che per loro è la pace. Infatti è appunto un po' complicato anche la negoziazione, come spiegare ai bambini qual è la differenza tra... Però c'è un modulo che secondo noi è molto importante, se andiamo avanti, sul tema dell'ascolto attivo, no? Ovviamente queste robe non ce le siamo inventate noi, abbiamo fatto delle ricerche, degli studi, ora vogliamo capire come declinarle per i bambini. L'ascolto attivo è un presupposto dell'attività di negoziazione per arrivare alla risoluzione del conflitto, quindi l'esplorazione, l'empatia, la capacità di chiarire, la capacità di fare sintesi anche, no? Rispetto a quello che sono gli interessi contrapposti, la mediazione nel trovare la soluzione. Vabbè, qui abbiamo sempre un po' di documenti. E questo è un altro capitolo, quindi più semplice. Il creative problem solving, quindi come risolvere i problemi in maniera più creativa, che poi probabilmente è anche la maniera più semplice forse. Abbiamo visto portare l'esempio di alcuni paesi, paesi che comunque sono in guerra, hanno conflitti interni e utilizzano i cani per scovare le mine. I cani non muoiono perché le scovano senza farle scoppiare. Sono tutta una serie di attività che faremo in concomitanza con le giornate internazionali. Questa è la qui giornata mondiale per degli animali. Quindi diciamo l'idea è di dedicare una giornata agli animali per la pace, gli animali simboli della pace, però anche facendo riferimento a quegli animali che lavorano anche per migliorare le condizioni legate ai conflitti, no? Quindi ad esempio con la storia dei cani. Oppure la storia del... Peraltro, scusa, qui ritorniamo a quello che dicevamo stamattina, coinvolgeremo questa chietta, lei non lo sa ancora, che si chiama Violetta Breda, no, vai su. Sì. E lei è un architetto che ama gli animali e scrive di architettura, design e animali. Abbiamo fatto una lezione con Francesco Gatti, sì, ricordo. Ok. Oppure anche sul giornalismo. In questo caso porteremo la storia di Giuliana Sgrena. Vi ricordate Giuliana Sgrena? La storia della giornalista che appunto è stata sequestrata. Lei è stata già qui, quindi la inviteremo a portare la sua testimonianza. Scusami, sì. Marina. No, vabbè. Perdono. No, te l'avevo detto. Mi fa ridere, mamma mia. No, esatto, porteremo la storia, vabbè, la già detto, quindi di portare la testimonianza ai bambini di come la libertà di espressione sia importante e di come vada preservata, perché comunque, anche come diceva prima Simona, le regole sì sono giuste da seguire, però capire quando una regola, cioè fino a che punto una regola è giusta, quanto è giusta per noi, come dobbiamo comportarci rispetto a quello. Quindi questo. Un altro tema, sempre per questo subcapitolo, sarà l'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno della risoluzione dei problemi. Non so voi, però nella mia vita e in quella dei miei coetanei, l'intelligenza artificiale ormai tipo ne occupa una stragrande maggioranza, cioè ormai c'è praticamente una quasi dipendenza dall'intelligenza artificiale. Non so quanti di voi, se qualcuno di voi la utilizza, l'ha mai provata. Poi appena si inizia a farla diventa sono quasi già dipendente in non tanto per farsi dare magari delle vere e proprie risposte, però comunque aiuta tanto ai input, perché è anche un modo più comodo, perché ti riassume tutto quello che c'è su internet in questo stesso programma lo abbiamo fatto anche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Esatto, questo tema è stato anche trattato dalla Santa Sede, quindi dal Vaticano, dal Papa, e di come possiamo farci aiutare dall'IA per risolvere questi problemi. E la lezione la tratteremo con Bianca e Francesco Savasta, che sono un padre e una figlia, tra l'altro sono stati qui con noi da poco, qualche mese fa, da poco. Loro si occupano anche di temi riguardo alla migrazione e sempre di come applicare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale a questo. Francesco è un fisico quantistico. Un altro modo per noi, cioè il teatro, in questo caso porteremo lo spettacolo dei Romani, che fa parte del teatro dell'inutile. Loro sono stati qui quest'estate, hanno fatto una performance in giro per Palazzo Micicè e racconteranno e spiegheranno ai bambini tramite un laboratorio di teatro quello che è il capitalismo, che ormai è anche un po' quasi alla base di tutte le guerre che ci sono, perché alla fine deriva un po' quasi tutto da questa ideologia. Tra l'altro noi abbiamo, cioè quest'inverno abbiamo studiato tutte le ideologie. E poi per portarle per spiegarle, abbiamo fatto un lavoro su come spiegare le ideologie ai bambini tramite l'utilizzo degli orsetti gomosi. Quindi noi abbiamo fatto queste presentazioni dove gli orsetti gomosi inscenavano ogni tipo di ideologia. Cosa? Non ce l'hai una foto? Ho la foto del magari più la. Ok. Un altro modo di risolvere i problemi in maniera creativa è appunto la storia di Emergency, che penso conosciate tutti. Quindi Gino Strada purtroppo non c'è più, però verrà sua moglie a raccontare la storia di questo libro, Diario di un sogno possibile. Gino Strada appunto diceva che la guerra è una malattia da cui il mondo deve e può guarire. E ne porterà la testimonianza a sua moglie, perché comunque Emergency... È la sua compagna. Ah, la sua compagna. Un altro tema sarà sempre quello delle città e di come i musei possono trasmettere pace. Racconteremo la storia di questo museo con il quale collaboriamo da tanti anni e che per noi è stato di grande ispirazione. Si chiama New Art Exchange, sta a Nottingham, e questo museo nasce anche lui 15 anni fa, contemporaneo a Farm, uno strumento di mediazione tra popoli di diverse etnie. Facendo le ricerche ci sono tantissimi musei della pace, no? Però non ci interessava scimmiottare, come dire, portare un'esperienza di un museo tradizionale, ma di un museo che si sporca veramente le mani per costruire la pace, in un quartiere di Nottingham, a Eison Green, dove c'è la più alta concentrazione di minoranze etniche. E quindi secondo noi quell'esperienza, no, è interessante anche per ragionare, noi non siamo un museo, siamo un centro culturale, cosa può fare un centro culturale per promuovere percorsi di pace. Qui invece siamo a Seoul in Corea. Hiroshima, il monumento al monumento alla pace, sì, di Hiroshima. Sì, proprio dove c'è il museo della bomba. E quindi faremo? Quindi parleremo appunto faremo un laboratorio dove i bambini creeranno con quello che secondo loro è un monumento di pace. Mm. Ok. Soddisfacente con sì. oppure parleremo anche del rapporto con la natura. C'era anche nella. Sì, sono tutte le robe incredibili. Sono due moduli sulla... Parlando del libro di Maurizio Oddo, che tra l'altro include anche quello che è il Mount Forest, e racconteremo appunto l'albero dell'architettura, oppure un'altra lezione, sempre per mantenere il tasso d'età giovane e basso, condurre una lezione a Olmo Fosco e Bianca Perazzi, che sono i figli di Antonio Perazzi, che è un paesaggista italiano. È un paesaggista molto famoso, i figli sono meravigliosi, come vedete già dalle foto, e hanno 11, 9, 7 anni, ma sono tre bambini con una sensibilità mostruosa. Io ho scritto un messaggino a Antonio dicendo se mi poteva raccomandare per avere i suoi figli come tutor, come diciamo, docenti di questa lezione. Abbiamo già il loro ok. Un altro capitolo è la comprensione delle differenze culturali. Quindi inizieremo con un laboratorio di lingua araba, insieme ad Agnese Episcopo, che è questa ragazza che studia e parla. Laureata in lingua araba, cultura araba. E quindi insegnerà anche ai bambini qualcosa che si può insegnare una lezione di arabo. Di due ore in quelle che sono le basi comunque dell'arabo. Oppure un'altra lezione sarà appunto riguardante il tema della religione islamica e di come da parte della nostra cultura c'è un grande pregiudizio e anche una grande incomprensione, secondo me, nei confronti della cultura islamica. Quindi questa ragazza Angela De Maria ha fatto un dottorato di ricerca su gli stereotipi islamofobici, no? E ci sembra, secondo noi, un bel tema da trattare, no? In questo filone che prova a far esplorare delle culture differenti, peraltro anche molto vicine a noi, perché in Sicilia siamo, come dire, sempre a contatto con la lezione in tutta Italia. Di arabo. Sì. Pensavo, non so se stamattina vi è capitato, forse oggi, ma perché sta andando a venditori ambulanti. Sì, infatti lo hanno registrato. Cioè, i venditori ambulanti è arabo. È arabo, la cadenza araba, il suono è arabo, e di fatto ti rendi conto come c'è questa vicinanza tra le due culture. Molto interessante poter approfondire anche questa cosa con Agnese. Oppure un'altra lezione che abbiamo deciso di portare è la lezione, cioè dopo questa lezione, il confronto tra le due religioni. Quindi ci piacerebbe portare una lezione con appunto tra un imam islamico e un sacerdote di qui del luogo per dimostrare appunto il dialogo tra le religioni e come sia possibile, anche perché poi i pregiudizi per le religioni e per le altre culture spesso partono quando si è più piccoli. Io me lo ricordo quando ero più piccolina alle scuole elementari, magari abbiamo una visione anche più chiusa, quindi è importante spiegare ai bambini queste differenze, secondo me, già da adesso. E poi l'ultima parte, quindi l'ultimo capitolo, come diventare un costruttore di pace. Partendo appunto dalla protesta, ma dalla manifestazione. Ma l'idea è che questo ultimo modulo ha a che fare con degli appuntamenti sul campo, esatto. No? Quindi, come sperimentare? Tu dicevi quanto è importante andare fuori, e sempre in occasione delle giornate l'idea è di fare determinate attività coinvolgendo le famiglie, ma anche coinvolgendo le associazioni del territorio, coinvolgendo la comunità, coinvolgendo gli attori rispetto ai diversi ambiti, no? Quindi c'è il 6 dicembre, c'è la giornata mondiale del volontariato, i nostri bambini andranno a fare un'attività di volontariato da qualche parte sicuramente. Però alcune lezioni le faremo in collaborazione con Prime Minister, perché l'idea è quella anche di costruire un manifesto di pace che possa in qualche modo anche avere un risporto, dico giuridico, perché per le ragazze non hanno questo livello, anche se quest'anno una proposta di legge è stata presentata in Parlamento dalle nostre ragazze, però costruire anche un documento che sia formalmente un toolkit da poter, che abbia anche una valenza politica e se possibile istituzionale. Quindi partendo anche da quella che è la giornata mondiale del volontariato il 6 dicembre, ci bisognerebbe esatto portare proprio i bambini in stretto contatto con questo mondo, che è una cosa che a Parma abbiamo già un po' fatto, ve lo faceva vedere lui, mio papà, anche prima. Quindi sì, come si possono fare dei pranzi di comunità. Il pranzo di Natale. Questo non è proprio Natale, però questo era un altro dei pranzi. Se riconoscete questo spazio, questo è lo spazio a metà dei sette cortili che noi chiamavamo un sempre. Spazio 6, quello. Spazio 6, dove siamo stati ieri. Vai avanti. Quindi il pranzo di Natale quindi, multiculturale. Sì. In cui si è svolto un pranzo di Natale tra persone di diverse culture. Eravamo tutti insieme, anche portando un po' riportandosi alla prima lezione, quindi all'insieme di cucina tra i paesi diversi. Okay. Questa è un'occasione, questa è la giornata dei diritti umani. Sicuramente c'è una giornata ogni settimana, però è bello in qualche modo pensare di poter settarsi anche su queste che sono le giornate mondiali e connettere, no, le nostre attività rispetto a questo. Andiamo avanti ancora. Manca in realtà la giornata internazionale della donna, quindi, che è stata ieri. Però noi ci vediamo a scuola del 2025. su rendere chiaro ai bambini e alle bambine l'importanza della figura della donna, che comunque non è ovviamente soltanto una festa, ma è un giorno per ricordare ricordare e tutti i traguardi e promuovere i successi delle donne. Poi in realtà manca una parte che mio papà ha dimenticato di inserire in questa meravigliosa presentazione, che è quella legata allo sport, quindi la giornata internazionale dello sport, che non mi ricordo di preciso quando sia. Però pensavamo di fare tipo una marcia a Favara, coinvolgendo tutti, quindi non soltanto i bambini della scuola di architettura e le famiglie, ma anche appunto i singoli cittadini di Favara e anche le società sportive. Tra l'altro a Favara nel periodo di maggio-giugno si festeggia questa grande festa, i Giochi Senza Barriere, dove si fanno giochi e si fa poi credo anche una marcia in giro per il paese per i bambini di disabilità. Ok, e poi l'importanza della musica all'interno della pace e di come la musica sia un grandissimo messaggio di pace. Infatti pensavamo di chiudere un po' il nostro ciclo di lezioni con un grande concerto, e ci piacerebbe che fossero coinvolte tutte le scuole di tutta Italia. Quindi oltre a Favara abbiamo tre scuole con indirizzo musicale. Quindi ci bisognerebbe fare un grande concerto. In realtà lo prepariamo in quella data e poi chiudi, vai avanti. E vorremmo chiudere, ecco, il 29-30 maggio, qui insomma lancio anche questa idea a tutti voi, Cristina, Silvia, e magari di poter pensare un evento che coinvolge tutte le scuole d'Italia, che può essere anche appunto un momento conclusivo di un percorso per dare ai bambini questo attestato di peace builder, no? Di essere dei costruttori di pace, e in cui ci può essere il concerto, ci può essere la marcia, ci possono essere varie attività, insomma ancora evidentemente è un'idea di massima che va raffinata. Ma sulla pace però, è veramente che sempre l'anno prossimo si potrebbe pensare, però non so quando lo farà, rimando al Renfiore, ma che in questo periodo si accende la fiaccola della pace, quindi potrebbe essere. Certo, sì. Questo ne hai parlato tu? Quindi grazie. In realtà ci ritiriamo l'applauso, bravina, perché non dobbiamo fare troppi complimenti. Bravo, ottimo lavoro. Un saluto per la dirigenza. Sì, 5 minuti e sono con voi. Rosa, inizia a fare. Rosa, gli fai fare un giro del palazzo nel frattempo? Sì, certo. Allora, è una bozza, no? di un programma. Io ce l'ho. E ci piacerebbe sentirli, no? Anche in una dimensione critica, perché per noi è importante. La parte che sentiamo che ci rende più vulnerabile è quella proprio legata a quei quattro moduli della definizione del conflitto, della manutenzione delle relazioni, ancora è un po' acerba, no? Come declinarla per i bambini. Però ecco, a noi suona bene perché prendiamo i libri, prendiamo la musica, prendiamo il teatro, prendiamo l'arte con i musei, gli animali, e ci piace molto questa idea di fare questo percorso che attraversa la lingua e poi arriva al tema dei pregiudizi islamofobici e poi fa incontrare dei leader religiosi. È molto ricco, probabilmente poi la parte più importante è quella legata alle attività che possiamo fare fuori dal palazzo, coinvolgendo la città, quindi probabilmente noi staff interno, quello che possiamo fare prima di iniziare appunto l'anno è dividerci, no? La responsabilità ciascuno per un singolo evento, per coinvolgere genitori, comunità, sapendo già quando iniziamo a settembre quali sono le date dell'anno in cui abbiamo bisogno di coinvolgere e mobilitare la città. A voi. Ho vinto. Secondo me è interessantissimo come tema e insomma. Te l'immaginavi che sarebbe stato questo il tema? Sì, sì, almeno l'ho provato a scommettere, ma non hanno voluto investire in questa cosa. Dopo questi due giorni ha percepito, ma perché in fondo secondo me in quella scuola di architettura per bambini c'è pure un po' scritto scuola di politica per bambini, no? Quindi è normale che l'architettura e la politica spesso fanno finta di non fare posti diversi, io faccio il tecnico, invece no, fare architettura è anche fare politica, e quindi parlare di pace quando facendo architettura secondo me è farlo proprio con coscienza, quindi insomma sono anche io curiosita da poter declinare appunto tutto quanto questo. E io mi auguro questa volta che questo tema sia quest'anno così, perché vabbè, ti porto una piccola storiella veloce. Io vivo in un paese che non è Provatina, il paese di Pronti, che si chiama Gagliaro, che è famoso in Italia perché è stato scomunicato dal Papa a un certo punto, perché in questa nostra comunità praticamente per anni c'è stata una donna che aveva delle apparizioni, delle storie, poi a un certo punto l'uomo che ha sposato la figlia ha ereditato tutti questi poteri quando lei è morta in pratica. È un luogo diciamo molto molto frequentato, quindi diciamo, ogni giorno c'erano 10-15 corrieri di persone da tutta Italia che venivano in questo luogo di culto in pratica. È morta questa signora, questo signore diciamo si è autoeletto papa di questa nuova Gerusalemme, così si chiama, Nuova Gerusalemme, e hanno costruito una grande arca di Noè, perché è un grandissima, cioè immaginate che nel nostro paese che è veramente sono 1000 abitanti, si diceva che gli angeli stessero costruendo questa arca, e quindi infatti non si vedevano imprese che costruivano questa cosa, finché una notte un grande tir che portava una trave navellare lunghissima è rimasta incastrata in una delle curve del paesino, e quindi tutti in strada a cercare di aiutare questo, e quindi abbiamo capito che non erano effettivamente gli angeli, ma era questa Orbis che non inseriva in porto dei lavori di questa grande arca che stavano costruendo. E attualmente cosa succede nella mia comunità, diciamo? Che c'è una divisione, un conflitto, cioè non c'è la pace nel paese di queste povere anime degli abitanti, perché in questa è diventata a tutti gli effetti una setta, perché non riconoscono più la chiesa, non riconoscono, diciamo, tutta quella storia lì, e si incontrano solo all'interno di questa arca. E non possono parlare con noi, cioè dal loro papa gli ha detto che non possono parlare con noi, quindi se ci incontriamo in paese ci diciamo ciao a prescindere, anche se non ci conosciamo. E invece a loro è stato detto questo. E loro però praticamente cosa devono fare per avere questo posto in paradiso? Il paradiso, vi avviso, è a breve, perché l'Apocalisse è a brevissimo. E praticamente devono comprare la casa del nostro paese, perché è la Nuova Gerusalemme, quindi se compro casa lì non ci stanno di e quindi stanno acquistando tutto il centro storico, però allo stesso tempo sono persone che vivono sia un Gagliano, il mio paese. E praticamente, per esempio, i miei genitori hanno venduto la casa del mio paesino, che era una casa, che ne so, questa stanza e l'altra, che nessuno avrebbe mai acquistato prima, però l'hanno venduta a 45.000 euro a delle persone di Milano, che appena sono presentati per comprare casa hanno detto: ma che ce dovete fare? Ma perché? E però capisci che c'è tutto un disastro dietro di conflitto e economie parallele, e quindi un conflitto reale. Adesso per esempio ci sono le elezioni a breve, e quindi c'è un problema. Loro adesso, avendo preso tutti la residenza del nostro paese, sono quasi vicino alla metà degli abitanti, quindi cosa succede se qualcuno cioè, insomma, quindi, ma stupendo, per esempio, stupendo. Quindi sono molto cioè, è stata scomunicata, cioè quindi all'interno, cioè nelle chiese dei vostri paesi a un certo punto c'era fuori la chiesa sicuramente un foglio che diceva: se andate a Galinaro non dovete seguire questo credo, perché vi porta in contestazione. Assurda. E quindi conflitto come, cioè appunto, non solo interreligioso a livelli, no? Hindu, musulmani, cioè, ma proprio a livello 1000 abitanti. Così. Perché appunto dove c'è secondo me disagio sociale. Cioè, se vai a vedere, vai un attimo a capire quelle persone più maese che si sono poi avvicinate a tutto quanto questo, c'è comunque talmente tanto disagio magari sociale, difficoltà di ogni tipo che ci possono essere nella vita, che se non affrontate con la cultura della condivisione, del rispetto l'uno dell'altro, vanno a sfociare in tutto questo. Appena un messia dice, no, appena un sottore dice: se seguite me vogliamoci bene, insomma. Quindi interessante. Insomma, quando mai a tua l'avrei detto, se non avessi detto questo tema, mi sento proprio il dovere di portare questo messaggio. Quando vi ho raccontato, quando vi ho detto la trascrizione, che la comunità di Sant'Egidio in realtà ha migliaia di scuole della pace sparse per tutto il mondo. Che non sono delle scuole della pace che parlano proprio di pace, no? Ma sono in realtà spesso nelle favelas, nei posti più periferici, dopo scuola, no? Dove a fianco dei bambini più in difficoltà, i bambini più difficili. E probabilmente, insomma, vediamo anche se inviteremo in uno di questi moduli un leader locale della comunità di Sant'Egidio di Catania, che si chiama Emiliano Abramo. Farci portare anche quell'esperienza lì. Poi sono un'altra situazione probabilmente rispetto alle architetture della pace, quindi anche architetture della guerra, e magari l'utilizzo che vedo sempre maggiore dei dissuasori, no? Che si inseriscono, che so, sulle panchine o la panchina che non fa sedere, no? Cioè magari riflettere pure un giorno sul design non pacifico, non so come dire, per l'accogliere. L'ultima biennale che c'era questo immobile di Beirut, che era il palazzo dei Cecchini, che poi è stato trasformato da un artista in un palazzo legato proprio a la pace del Palazzo del Vento, aveva fatto un lavoro artistico molto interessante, con il tema di architettura. Di ma ti riferisci a Jeanne del Curie? Sì. E ieri l'ho fatto notare ancora, sì, che ci sono le tracce, sì, delle sue installazioni. No, facevo così, ma in realtà Palazzo Micica è questo. Quando abbiamo visto quei drappi ancora, no? Sì. Bene. Ma le lezioni dei vari capitoli, diciamo, si mixano? Cioè, sì. Non sono cronologicamente ordinate? Sì, anche per evitare di appesantire, quindi proviamo a mischiare. Sì, perché ad esempio il tema, quello che pensiamo sia più difficile, è spalmato. Cioè, perché se lo fai tutto in un blocco, fai due mesi, i bambini ti abbandonano tutti, ciao. Sì, vabbè, sicuramente la questo tipo di programmazione è interessante per la scuola, questo non è a caso, no? No, infatti è una roba un po' diversa rispetto al passato, in cui in qualche modo probabilmente c'era anche più serendipity, perché non sapevamo subito di partenza cosa arrivasse, però ecco, rispetto al tema cerca di sviscerarlo in tutte le sue sfaccettature, no? Se ci pensi, anche quando Francesco fece il direttore, che è stato probabilmente uno degli anni più brillanti su Favara, aveva diviso il programma in tre moduli tematici, no? Quindi un po' riprende anche quella dimensione lì di avere bene già in testa quello che fai durante tutto l'arco dell'anno, ma qui c'è proprio l'obiettivo, no, di dire dedichiamo quest'anno alla pace per portare questi bambini ad avere una consapevolezza del tema della pace ed essere nel loro piccolo, no, degli ambasciatori di pace. Sarebbe bello tipo farlo con la mia scuola, che anche se non è di qua, però la mia scuola veramente comprende ragazzi da tutto il mondo, senza esagerare, quindi veramente il progetto consisteva nello studio delle culture diverse, tipo sì, però affrontando in maniera trasversale a seconda del livello scolastico, però nel grado scolastico, però in maniera anche molto divertente, dalle musiche alla cucina, al teatro, all'architettura, e quindi poi creare questo mix e farlo affrontare alla stessa scuola in diversi gradi, facendolo affrontare in maniera trasversale. Comunque, c'è una forte comunità senegalese che ha un dato con la carica. Un pomeriggio. Visto che la Caritas il pomeriggio con il dopo scuola ed è frequentatissimo da ragazzini senegalesi. Bello. Comunque per semplificare anche questa cosa, perché mi rendo conto che non è la città più complessa, che poi immagino poco, quindi trovo che sono le immagini complesse. Per esempio, no, poi la lettura potrebbe essere pure quella di pensare il tema della pace come dei lavori di cooperazione, no? Per esempio, sui laboratori Tulle, no? In cui in effetti ognuno fa qualcosa e poi mettiamo tutto insieme e ci rendiamo conto che insieme è tutto più bello. Cioè, insomma, non è per forza una cosa, una grandissima per pace. Io proverei a chiudere. Stimolando ognuno di voi, no? a dirci rispetto a questo tema, qual è l'idea che già gli è venuta in testa per un laboratorio, diciamo, ad Ancona o nei vostri rispettivi territori? Ma a me è un po' più declinato. Un po' più declinato sull'architettura. Questa mi sembra tanto politica. Sì, e per lo meno per le mie competenze è è un po' più difficile forse, quindi magari pensarlo un po' più, cioè, che non è facile pensare al tema della pace, però un po' più spalmato sull'arte e l'architettura, ecco. Hai ragione, però mi piace, non so chi l'ha detto, forse Marcella, che in effetti fare architettura è fare politica, no? Quindi bisogna trovare un modo, diciamo, una declinazione, è difficile. Devo dire che il tema è meraviglioso, ma mi ha immediatamente messo in crisi, perché chiaramente farlo passare dai bambini è attraverso il gioco, è attraverso, attraverso il tema della scuola, addirittura per bambini, non è così semplice. Comunque teniamo... Scusa. E quindi, diciamo, dobbiamo davvero ragionarci un attimo. Secondo me quello che ho visto qua è un tiro altissimo, è un'alzata di tiro altissima, e che davvero mi preoccupa un attimo per capire come può essere il passaggio a dei bambini, ecco. Però non ne ho esperienza, quindi devo prima interiorizzarlo, parlarne, ragionarci insieme, capire le persone giuste. Il tema è bello proprio perché è una sfida, no? E quindi io lo accolgo come tema, mi piace, vedremo, però come non lo so proprio. Adesso quello che mi piace di più era perché quello che lo lega immediatamente al tema della scrittura. Cosa mi è piaciuto di me? Sinceri, il tema della, dell'idea della costruzione di un monumento dedicato alla pace lo trovo il più immediato, perché i bambini sanno che cos'è un monumento, no? Perché lo vivono nelle proprie città, e magari attraverso una cosa fisica io riesco a veicolare un po' il concetto, e quindi quello mi è sembrato il più facile, diciamo, il più da riutilizzare. Come possiamo a bambini fare costruire degli spazi per il gioco da altri bambini, in luoghi di guerra, in luoghi di pace, nei campi profughi, c'è a Gaza i bambini oggi dove giocano, o può essere un luogo di pace anche un luogo dove, questa è una cosa che i bambini fanno nell'immediato, al di là del momento, poi il tiro. Però come facciamo a far capire ai bambini, cioè, chi il gioco a Gaza, chi non ha esperienza di quella, loro non riescono ad astrarre, cioè fino nella didattica, diciamo, dei bambini è tutto molto pratico, quindi l'astrazione arriva già alla scuola media e poi quindi... No, però noi abbiamo fatto questo con i bambini, ad esempio, un altro progetto, intanto facendoli lavorare i bambini sulle piante, facendoli lavorare con Lego e facendoli lavorare con Minecraft, che i bambini sanno utilizzare. Tra l'altro molte cose su Minecraft si trovano, ma anche con Google Earth ha il vantaggio che puoi misurare gli spazi per fare la fotografia dell'arte, quindi è molto interessante. Quindi è pur vero che i nostri bambini non vivono in luoghi, forse per noi per favore è più facile perché li portiamo a fare una passeggiata in centro storico, è uguale a casa, senza volere, però per voi è più difficile, però i bambini non hanno così, come dire, purtroppo guardano il telegiornale, purtroppo vedono le immagini, purtroppo sanno che c'è la guerra. Quindi, se è vero quello, però proviamo a immaginare anche come loro possono pensare ad un modo diverso, anche nel costruire luoghi dove campi profughi, come noi possiamo costruire campi profughi. Cioè, se noi proviamo a aiutarli, no? Anche a immergersi in questi problemi, in questi temi, perché altrimenti rimane sempre veramente una cosa per loro lontana, ci fanno sorridere, vivono nella pace, come dite, vivono nella guerra, e questo dialogo non si creerà mai. Ma viene in mente, perché magari se parliamo